Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera, bentornati a Mr. Kilowatt. Con 130 milioni di metri quadri di pelli lavorate all'anno, l'Italia è il primo paese al mondo per questo tipo di lavorazione. Insomma, per darvi un'idea, 130 milioni di metri quadri sono circa i 2/3 della superficie del comune di Milano. E anche in termini economici parliamo di un settore molto pesante, 17.000 addetti, 4 miliardi di fatturato, che sono circa i 2/3 di tutto il fatturato europeo riconducibile a questo settore e il 20% di tutto quello mondiale. Insomma, pesanti sono gli aspetti economici e quindi anche i numeri dei consumi energetici, dell'impatto ambientale di questo settore. E sarà per questo che Legambiente ha deciso di assegnare il premio Green Life a una nuova tecnologia estremamente efficiente di lavorazione proprio delle pelli. La tecnologia si chiama TanFast, tecnologia di concia rapida in continuo senza scarichi idrici, questa è la definizione, come dire, tecnica, ed è stata sviluppata da Concia Ricerca, una società del gruppo UNIC, l'Unione Nazionale dell'Industria Conciaria. Ne parliamo con uno dei suoi ideatori, Federico Brugnoli, che è un esperto di innovazione un po' a 360 gradi e che è in linea con noi. Buonasera Brugnoli. Buonasera. Allora Brugnoli, comincia tutto in Spagna qualche anno fa. Noi abbiamo condotto con la Spagna un progetto finanziato dalla Commissione Europea che ci ha permesso di identificare una tecnologia molto innovativa. Questa tecnologia ha permesso infatti di arrivare a un nuovo tipo di semilavorato per l'industria della concia. Che cos'ha in particolare questo semilavorato? Ha subito una disidratazione chimica, sì. Cioè gli abbiamo fatto sostituire l'acqua che normalmente sta nelle pelli con un solvente in un ciclo assolutamente chiuso. Questo solvente poi evapora e produce questo nuovo semilavorato, che è una pelle bianca che può essere immagazzinata e che ha delle proprietà che poi vedremo più avanti. Ok, quindi insomma c'è un nuovo semilavorato che viene già prodotto con una tecnica, diciamo, abbastanza amica dell'ambiente, abbastanza efficiente, perché appunto questo solvente, che poi è acetone se non sbaglio, un solvente molte persone, esatto. Ecco, viene utilizzato a ciclo chiuso, quindi viene buttato dentro, poi ritirato fuori, quindi insomma c'è risparmio anche di materie prime. Praticamente l'acetone entra nella pelle, sostituisce l'acqua. Noi piano piano poi alziamo la temperatura, l'acetone quindi evapora e lo ridistilliamo per utilizzarlo una volta in più. Quindi insomma, alta efficienza dal punto di vista delle materie prime. D'altra parte poi la concia, ecco, diciamolo magari, che cos'è in fondo? È un modo per non far imputridire la pelle. Esatto, la concia praticamente applica al manto animale, che mi piacerebbe ricordare, il manto animale utilizzato nella concia in Italia arriva quasi per la totalità da capi abbattuti per l'industria alimentare, quindi stiamo già parlando di un grande elemento di riciclo dal punto di vista ambientale. La concia rende imputrescibile questi manti animali e li rende utilizzabili per l'industria della moda, dell'arredamento, della calzatura, della pelletteria, quindi prodotti ad alto valore aggiunto che arrivano sostanzialmente da scarti dell'industria alimentare. Ecco, ed è un processo chimico quello che rende possibile questa imputrescibilità, e da sempre si usano sostanze chimiche, insomma anche nell'antichità erano di origine prima vegetale e persino oggi per fare le suole delle scarpe si usano i tannini, che sono quelle sostanze che quando sono troppo abbondanti nel vino fanno allappare la lingua, vero? Esatto, i tannini sono sostanze contenute prevalentemente nelle cortecce degli alberi. Ecco. Una volta la concia veniva fatta soltanto con queste sostanze vegetali, oggi di conce ne esistono di diversi tipi, esistono conce minerali, esistono conce coi metalli. Ecco, dicevamo, c'è questo nuovo semilavorato che è una pelle disidratata. A questo punto arrivate voi con questo TanFast, questa innovazione. In che cosa consiste e quali vantaggi offre? Ma TanFast ha portato avanti la grande idea di portare efficienza non solo nell'impatto ambientale ma anche dal punto di vista economico in un contesto di mercato che è andato cambiando molto negli ultimi anni. La conceria ha sempre lavorato per lotti omogenei di grosse dimensioni, oggi invece il mercato richiede sempre di più piccoli lotti con grandi variabilità. Quindi lavorare in batch, in discontinuo, continua ad aver senso per grossi lotti, ma la nostra tecnologia, ecco, entra sui lotti di piccole dimensioni. Cosa succede praticamente? Abbiamo sostituito il bottale, questa grossa botte dove le pelli vengono trattate con sostanze chimiche e acqua, con una macchina a rulli che trasporta le pelli, le immerge in un bagno ad alta concentrazione. Abbiamo detto prima che le pelli sono disidratate, quindi naturalmente loro che cosa fanno? Fanno come un effetto spugna, quindi assorbono molto rapidamente l'acqua e i prodotti chimici concentrati e li fissano alle parti delle proteine, il collagene, l'elastina, tutte le proteine che costituiscono la pelle, in modo da acconciarle, tingerle e renderle pronte alla fase finale di lavorazione. E questo avviene anche molto rapidamente, se non sbaglio. Ma guardi, abbiamo avuto prove con risultati ottimi, siamo sotto i 10 minuti per il tempo totale di lavorazione, contro lavorazioni che possono arrivare anche alle 12 ore. Vabbè, insomma, un bel risparmio di tempo. Senta, rapidamente, in sintesi, i vantaggi anche di tipo ambientale di questa tecnologia. Ma sicuramente il principale effetto ambientale positivo è un risparmio enorme di acqua. Teniamo presente che la lavorazione delle pelli utilizza quantitativi d'acqua che poi sono depurati, ci sono grossi depuratori centralizzati in Italia. Noi però con la tecnologia Tanfast arriviamo a risparmiare fino al 40% dell'acqua totale utilizzata in conceria, si arriva a risparmiare fino a un 10% di energia, fino al 20% di prodotti chimici e non dimentichiamo l'elemento fondamentale che è quello dei tempi. Dimezzamento dei tempi complessivi, diciamo, di processo, più o meno. Possiamo arrivare a un dimezzamento. Grazie Federico Brugnoli. Grazie mille a voi. Per questa sera è tutto, l'appuntamento è per domani, stessa ora, con delle valvole molto molto intelligenti. Buona serata.